Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, c'è questo di buono, che dopodomani si ricomincia, è in programma l'ultimo mercoledì di campionato, sicché i tanti veleni messi in circolo in questo fine settimana per il livello altissimo delle polemiche, dico altissimo dal punto di vista quantitativo ma infimo sotto il profilo qualitativo in quasi tutti i casi, insomma è destinato ad abbassarsi visto che poi si ritorna in campo. A proposito di polemiche, di gente sull'orlo di una crisi di nervi, tra poco ascoltiamo lo sfogo di Mourinho di ieri sera a fine partita, che mi sembra emblematico da questo punto di vista. Mourinho si è già calmato, una notizia dell'agenzia ci informa che in attesa di sapere se verrà squalificato o meno dal giudice sportivo, e tra l'altro i provvedimenti verranno presi oggi proprio per il turno infrasettimanale di campionato, Mourinho stamattina ha festeggiato i suoi 46 anni, oggi è il giorno del suo compleanno, aprendo l'allenamento dell'Inter ai tifosi, ma gli sono arrivate brutte notizie. Leggo sempre dall'agenzia, sui suoi difensori, Burdisso e Maxwell non si sono allenati per l'influenza, Chivo e Samuel verranno sottoposti ad accertamenti in giornata per i problemi muscolari che hanno accusato ieri sera contro la Sampdoria. Sentiamo allora questo, trovate voi l'aggettivo, questo sfogo di Mourinho di ieri sera facendo magari un po' mente locale al rovesciamento dei ruoli. D'accordo con voi, non dico mai, ma non sono dal momento che voi... Per tutto il giorno troppo felice con la Juve davanti a noi, che non era vero, noi eravamo davanti. E adesso chissà solo noi siamo felici, perché siamo senza dubbio davanti con 3 punti più che il secondo, con un arbitro che preferisco non commentare, perché per commentare questo commento sempre, non mi piace commentare, e per commentare questo devo commentare anche quello che è successo ieri, quello che è successo oggi in altri stadi. Mi sembra che questo fine settimana è stato chiaro, e penso che voi siete persone oneste per giudicare di un modo onesto quello che è successo questo fine settimana. Io sono fuori di campo e non posso fare il mio lavoro perché ho detto all'arbitro che avevo paura. 6 minuti. Perché in primo tempo tanti cartellini giallo, il mio rosso, giocatori sfortunati, 3 minuti di recupero. In secondo tempo che è successo per 6 minuti? Penso che l'unica cosa che è successo era un Inter che vinceva per 1-0 in difficoltà, perché in questo momento giocava senza 2 difensori centrali. E penso che è l'unica cosa che giustifica 6 minuti di recupero, esattamente la nostra difficoltà, perché penso che questa partita, se la Sampdoria pareggia, non sono 6 minuti, è 1-2, e se noi abbiamo bisogno di tempo per arrivare al gol, sicuramente che non sono 6. Un uomo sull'orlo di una crisi di nervi, direi con tutta evidenza, perché certi livelli di stravolgimento della realtà possono essere dettati soltanto per l'appunto da una mancanza ormai di autocontrollo abbastanza evidente, che poi si traduce anche in scelte tecniche sul campo, perché se poi invece di queste cose parliamo magari un po' di calcio, beh, io credo che aver inserito 5 attaccanti contro il Cagliari, che giocava a calcio, che aveva tutti i suoi bravi difensori allineati e giocava a calcio in velocità in contropiede, esponendosi quindi a loro cosa, e giocare con una punta stanca poi nel finale e mezza contro la Sampdoria, che non aveva difensori di ruolo, ne aveva 2 soltanto all'inizio, e quei 2 li ha persi per infortunio durante la partita. Beh, io credo che a Coverciano ci si potrebbe anche porre delle domande al corso allenatori su casistiche di questo genere. Sentiamo la risposta di un non meno alterato Mazzarri. Per lui è già un tantinello più abituale, ma insomma magari anche lui di fronte a certi stravolgimenti non è abituato. Intanto non ha meritato la vittoria all'Inter, perché noi credo non abbiamo giocato sicuramente peggio dell'Inter da tutti i punti di vista, sia palla a terra come calcio piacevole. Siamo stati per 5-10 minuti anche sullo 0-0 il primo tempo a fare noi la partita, abbiamo solo avuto il torto di sbagliare l'ultima conclusione, abbiamo mandato molte palle in tribuna. Se parla lui dell'arbitro mi viene da sorridere, proprio perché, per esempio, se avete visto, Adriano ha fatto il gol, ha sbloccato e poi è stato il gol decisivo, ha dato un cazzotto a Castaldello e credo che intanto non dovesse essere più in campo dopo quel pugno. Poi ci sono stati, a mio avviso, un rigore netto, quello su Pazzini. Poi ci sono stati c'è stato un probabile rigore su Stankevičius e altri, e la distribuzione dei cartellini gialli di altre cose sarebbero da valutare tutte. Quindi io credo che se qualcuno si deve lamentare oggi dell'arbitraggio non sia Mourinho ma Mazzarri. Siamo partiti da Inter-Sampdoria un po' per ragioni cronologiche, perché è stata l'ultima di queste partite avvelenate del fine settimana giocate, un po' per ragioni cronologiche, ripeto, e poi perché c'è stato questo stravolgimento finale a cura del grande comunicatore, ma non erano mancate evidentemente né nel pomeriggio né tantomeno la sera prima, e non solo a Torino, che ovviamente fa più eco, ma anche a Reggio Calabria. Io credo che il danno più grosso di questo fine settimana alla fine l'abbia avuto la Regina, perché in assoluto è la squadra che avrebbe strameritato un calcio di rigore a pochissimo dalla fine, che avrebbe evidentemente prodotto un altro risultato, se realizzato, un risultato completamente opposto a quello che invece poi è maturato grazie al grande gol di Italiano in fase di recupero che ha rilanciato il Chievo e che ha riaperto con altre prospettive la lotta della salvezza. Se parliamo invece, in attesa poi dei vostri interventi in diretta, se parliamo invece di prospettive per il titolo, mi sembra che come mi ero permesso di prevedere la scorsa settimana, l'effetto Kakà ci sarebbe stato, e cioè avrebbe rigalvanizzato il giocatore, ma avrebbe anche ridato una scossa ambientale, parlo di squadra, e mi pare che la si sia vista a Bologna, perché anche lì ci sono state cose da discutere, ma non è in discussione la legittimità della vittoria del Milan, un salto di qualità abbastanza notevole anche dal punto di vista della qualità del gioco e la considerazione che il Bologna era pur sempre reduce da una striscia positiva, mi pare, di 9 partite, di 7 pareggi e 2 vittorie, comunque da 2 mesi e passa da quando era arrivato Mihajlovic di imbattibilità. Sentiamo Ancelotti, che si sofferma anche sul ruolo e sull'importanza di Beckham in questo telaio. Bisognerebbe chiederlo a lui, se dice vedremo vuol dire che sta pensando al fatto che possa anche restare. Noi siamo con le mani legate perché ha un contratto chiaro, né io né il Milan possiamo fare niente per cambiare lo stato di cose, può fare qualcosa lui sicuramente. Fino a che lo abbiamo a disposizione cercheremo di fare le cose nel migliore dei modi. A disposizione prima del previsto potrebbe avere Gattuso Ancelotti. In un'intervista ad un settimanale femminile, in edicola da domani, c'è un'anticipazione che leggo adesso: i medici dicono che sono un folle, ma io cerco sempre il limite e quindi esagero con gli esercizi di recupero. Io vorrei tornare in campo tra 3 mesi. E i medici continuano a escluderlo, ma Gattuso non si nega alla speranza di rientrare per l'ultima parte della stagione. C'è poi un'altra notizia d'agenzia in cui Marcello Lippi, in un'intervista al TG2, fa un appello contro la colpevolizzazione degli arbitri, dicendo: dei grandi giocatori alcuni giocano benissimo, altri un po' meno, la stessa cosa succede alla squadra degli arbitri, mi sembra perciò ingiusto colpevolizzarli ogni volta in questo modo. A questo proposito, divertente quello che è successo ieri a Siena debuttava un arbitro che si chiama Candussio, era la sua prima partita per l'appunto in Serie A, Siena-Atalanta. Ebbene, dal paese di Cervignano del Friuli, da cui è originario Candussio, sono arrivati in Toscana 3 pulmini con circa 30 tifosi, ma non tifosi del Siena o dell'Atalanta, tifosi dell'arbitro, che prima, informa l'agenzia, hanno pranzato nel centro storico di Siena e poi si sono accomodati sulle gradinate e hanno seguito la partita. Tra l'altro Candussio è stato uno dei pochi ieri ad essere scampato alle polemiche del dopo partita. Sentiamo qualche... ci sono già degli ascoltatori in linea. Beh, allora diamo subito spazio a uno di loro, poi ricominciamo con le voci. Le voci di ieri che servono, mi auguro insomma che sia abbastanza chiaro il messaggio, che servono a lanciare o a rilanciare dei temi per innescarli insomma in maniera più documentale. Boris ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì. Buonasera. Dica. Buonasera dottore. Sì. Senta, io sono un tifoso della Fiorentina da 80 anni, ma una tragedia come c'è ora a Firenze non l'avevo mai vista. Le ripeto, sono tifoso della Fiorentina, non sono tifoso né di Della Valle né di sindaco di Firenze, perché loro su tutti i giornali scrivono gli hanno salvato Firenze e la Fiorentina. Firenze con i giochi di calcio non si salva. Però una cosa va riconosciuta. Anche nella sua trasmissione è tanto bella. Della Fiorentina se ne parla sempre poco. Si parla sempre Inter, Milan e Juve. Moratti e c'ha due allenatori, gli spende un monte di miliardi. Io non so se è un mecenate, se lo fa per passione, se fa per scaricare dalle tasse, soldi. Certo, questo è un fenomeno. Compra giocatori di tutto il mondo, trova tutto e poi per fare una partita di calcio... se non annullano un gol, gli danno un rigore, non gli riesce di fare quasi nulla. Allora è meglio il Catania, con Zenga. Mi piace di più, e ripeto, io sono tifoso della Fiorentina, solo della Fiorentina. Grazie tanto. Grazie, grazie a lei Boris. Non entro nel merito, è troppo bella, è troppo elegante la sua parlata per chiosarla. Giorgio da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, dica. Guardi, io alla favola dei torti e dei favori che alla fine si compensano, ho smesso di credere forse prima a quella che a Babbo Natale. E fin lì ci siamo. Bravo, ecco. Io credo molto di più ai numeri e ai fatti, no? E i numeri dicono che in Italia esiste un'importante società di calcio in stato prefallimentare da tempo, che sta a cuore a molti potenti, tra parentesi, che ha assoluto bisogno di essere presa per mano e guidata verso i soldi della Champions League, e a costo di spazzare via, più o meno brutalmente, tutto ciò che si frappone a questo programma. Stia tranquillo, io glielo dico adesso con un anticipo di mesi, io sono certo che non appena questo programma verrà in qualche modo attuato, ad altre società, tipo la Fiorentina, verrà restituito qualche cosa, ma sarà un po' tardi. Giorgio, io le posso soltanto ricordare che le lamentele di non poche squadre dello scorso anno, perché secondo loro la Fiorentina era stata discretamente agevolata dagli arbitri nella sua rincorsa alla Champions League, poi puntualmente ottenuta. Io credo che non fosse vero, se non in minima parte, lo scorso anno, così come penso che non sia vera la congiura quest'anno. Certo, è anche ragionevole che ogni tanto gli arbitri si diano una regolata, perché non c'è dubbio che tante casualità così consecutive, per esempio nelle ultime tre giornate, come sono successe alla Fiorentina, è indubbio che legittimino cattivi pensieri. Luciano, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Garanzini, senti, volevo parlare di una cosa, l'estradizione lì di Battisti. Brasile non vuole ridarci. Sì, ha sbagliato programma però Luciano, la devo dirottare su qualche altra trasmissione, perché qui stiamo parlando di sport e con tutta la buona volontà non mi sembra che Battisti sia una mezzala, quindi sinceramente non è questo il territorio in cui esprimersi. Enrico da Bologna, buongiorno. Buongiorno, dica. Volevo dire alcune cose, sono tifoso interista. Prima di tutto penso che ieri sera l'arbitraggio sia stato pessimo, come pessima è stata la partita disputata da entrambe le squadre. Brutta. Se è vero che sicuramente ci stava il rigore per la Sampdoria, forse c'era anche un rigore su Cambiasso e Stankevičius andava espulso per simulazione con doppia ammonizione. Detto questo, riguarda Mourinho, secondo me alcune cose bisogna dirle. Prima di tutto la scelta dei giocatori, che sono due investimenti della società che sono stati completamente sbagliati, che sono Mancini e Quaresma, in un modulo completamente sbagliato, perché Ibrahimovic gioca sicuramente meglio seconda punta che prima punta, e quindi con partendo da Ibrahimovic, che mi sembra l'elemento da cui bisogna partire per costruire quella squadra lì, ci volevano due giocatori, dei giocatori diversi, un modulo diverso, e comunque anche volendo giocare il 4-3-3 ci vogliono due giocatori che attacchino gli spazi e non che vogliano la palla in mezzo ai piedi come sono Quaresma e Mancini. E in seconda cosa, ci sono stati degli attacchi a giocatori che, parlo di Cruz, parlo di Cordoba, che sono, lasciano veramente un po' stupiti. E Maxwell e Balotelli, forse fa prima a fare l'elenco di quelli che non sono ancora stati attaccati e che sono in attesa evidentemente di esserlo dal loro allenatore pubblicamente. Enrico, grazie. Continuiamo con i vostri interventi, alternandoli a qualche ripasso su capitoli importanti di ieri, restando tra l'altro in attesa delle, dicevo all'inizio, delle decisioni del giudice sportivo che potrebbero anche arrivare in questa ora, compreso l'eventuale ricorso alla prova televisiva per Adriano. Cristian ha chiamato dalla provincia di Salerno, buongiorno. Salve Garanzini, dica. Buongiorno. Allora, io niente, volevo parlare della giornata nera, tra virgolette, degli arbitri che c'è stata ieri. Toga pure le virgolette, perché... Però non per attaccarli, ma per dire semplicemente che purtroppo se non ci mettiamo sempre nella stessa ottica, che possono sbagliare, che non sono aiutati dai replay, che la moviola in campo non la vedono e che devono decidere una frazione di secondo, e continuiamo a pensare solo ai complotti e ai dossier, roviniamo quel po' ancora di bello che è rimasto nel calcio, perché purtroppo gli errori degli arbitri ci sono stati quando c'era la cupola, ci sono e ci saranno, purtroppo sono umani, sbagliano, quando sbagliano loro, quando sbagliano una sola volta vengono comunque molto spesso troppo vessati. Io ho visto la partita sabato sera Juve-Fiorentina e ci sono stati tanti episodi dove l'arbitro e il guardaline hanno azzeccato la decisione, però comunque si vedeva benissimo dall'espressione dei giocatori che sono stati mandati comunque a quel paese, perché purtroppo sono anche spesso i giocatori stessi che molto spesso non capiscono di essere magari in fuorigioco, non capiscono magari il fallo che hanno fatto, però purtroppo poi se lo si va a rivedere è così. Ed allora, se loro sbagliano una valutazione, il giocatore non bisogna dire niente, se lo sbagliano gli arbitri c'è il complotto, ci sono i dossier, bisogna essere rispettati. Ma Cristian, lei ha ragione, il suo è un intervento saggio ed è un richiamo all'ordine che vorrei fosse condiviso a larga maggioranza, direi a larga maggioranza, perché poi ci sono anche dei casi in cui ci sono errori abbastanza incomprensibili e lasciando stare per l'appunto complotti, congiure o cose di questo genere, per esempio io ieri ho visto da un certo arbitro Romeo concedere dei rigori a Roma, all'Olimpico, i due, forse anche quello al Cagliari, ma insomma lì c'è una dinamica che lo autorizza, ma i due rigori accordati alla Lazio sono sinceramente imbarazzanti e non lo dico in senso di congiura, lo dico perché non stanno in piedi da un punto di vista tecnico e sono come i gol sbagliati incredibilmente a porta vuota, no? Sono d'accordo con lei che equivalgono a un errore grave di un giocatore, però un errore grave, ecco, in genere quando si sbaglia gol a porta vuota o si prendono tre gol come quelli che ha preso ieri Benussi, il portiere del Lecce, beh, i quattro in pagella arrivano inevitabilmente perché sono determinanti per il risultato. Da Pavia ha chiamato Carlo, buongiorno. Buongiorno, sono Carlo e premetto che sono tifoso interista. Sì. Volevo un suo commento sul presunto fallo di espulsione di Adriano. Visto che anche lei non l'ha commentato, quindi presumo che anche lei prenda per buona la versione che è stata data da tutti i mezzi di informazione, che Adriano ha sferrato un pugno al difensore. È così? Carlo, io non prendo per buono nulla, ho gli occhi per vedere. No, e quindi lei dà questa interpretazione? Da due a tre giornate, per conto mio, da prova televisiva. Vuole spiegare allora com'è possibile che tecnicamente si dia un pugno quando due corpi sono attaccati e il braccio serve unicamente per allontanare il difensore da se stesso? Non lo so, io adesso non vorrei mettermi qua a fare una lezione di tecnica pugilistica, posso chiamare il grande Nino Benvenuti per farcelo spiegare. Rimane il fatto che Adriano ieri sera ha giocato meglio del previsto, ma era più nervoso del previsto. Avrebbe già dovuto essere ammonito, se lei, al di là delle interpretazioni, se lei ha osservato le immagini qualche minuto prima, quando non gli era stato fischiato un fallo a favore in mezzo al campo, lui si è innervosito ed è andato ad abbattere il difensore in possesso di palla sulla linea laterale ed è stato graziato da un cartellino, che sono sciocchezze, perché poi soprattutto per un attaccante i cartellini vanno e vengono, è diverso per difensori o centrocampisti di interdizione. In quel caso è ovvio che il fallo lo ha cominciato Gastaldello, mi pare fosse, e che la trattenuta era reciproca, ed è umano che per liberarsi da una stretta così avvinghiante, ed è umano che uno cerchi di strattonare a sua volta o cerchi di liberarsene, però un cazzotto mirato alla bocca e allo stomaco non è un granché. Su questo l'arbitro Celi secondo me va assolto e guardaline compresi, perché l'azione, proprio perché non è stato, come dice lei, un pugno portato platealmente di lontano, era difficilissimo da cogliere a quella distanza. Quello è uno di quei casi in cui non è onesto mettere in competizione l'arbitro con una telecamera, perché l'occhio della telecamera che accorcia è evidentemente molto più potente, quindi la lotta è impari. Dario, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini, grazie. Dica. Ascolti, una semplicissima domanda. Io la seguo quasi tutti i giorni quando posso. All'inizio dell'anno mi trovava con corde, parlando degli arbitri, sembrava che si fossero allineati abbastanza bene. Come spiega lei questo calo di quasi incapacità nel vedere le partite ultimamente? Una sua idea, quello che vedo io, errori da tutte le parti. Io non voglio essere, al di là che sia milanista, lasciamo perdere tutti, sbagliano per tutti. Però sembra che stiano sbagliando sempre di più invece di migliorare. Una sua opinione, tutto qua. Grazie. Sbagliano in certi momenti più e in certi momenti meno. Insomma, quest'anno c'è stato un rendimento abbastanza altalenante. Io credo finora superiore a quello dell'anno scorso, cioè qualitativamente migliore. Lunedì scorso si sono incontrati arbitri, capitani e allenatori ed erano tutti abbastanza d'accordo, anzi d'accordo senza l'abbastanza, nel tracciare un bilancio tutto sommato positivo del girone d'andata, era per l'appunto finita l'andata, e quindi nel riconoscere gli uni e nel insomma autoattestarselo gli altri per bocca di collina che il rendimento complessivo di quest'anno era certamente cresciuto. Poi ogni tanto arrivano domeniche come quelle di ieri e tutto allora torna un pochino in discussione, insomma. Sentiamo ancora un ascoltatore, poi magari cambiamo un capitolo momentaneamente. Marco, chiamato da Varese, buongiorno. Eccomi, salve Garanzini. Dica. Dunque, una considerazione, prima una premessa. Io seguo tutt'altro sport, l'hockey su ghiaccio, lei mi serve, tra virgolette, per mettere il termine, perché faccio un lavoro tale per cui è necessario sapere di calcio. Questa è la premessa, dunque potrei dire una castroneria. Dunque, io alleno nella vita una bambina che è mia figlia, l'alleno, provo ad allenarla alla vita, no? La cosa che non gli darei mai nel mio allenamento, per mettere il paragone calcistico, è un alibi, nel senso il suo professore, tra virgolette, potrebbe sbagliare, oppure sbaglia, è capitato, e io gli dico, guarda, ha sbagliato, hai ragione totalmente. Dunque, gli creo un alibi in questo modo, dunque anche se sbaglia utilizzerei delle altre parole. Quando ho ascoltato questo commento del professor Mourinho, raccontava appunto di un grande alibi, gli arbitri ce l'hanno contro di noi, dunque il giocatore in qualche modo è scusato, se si vuole, perché se la categoria arbitrale ce l'ha contro questa squadra, cambia i minuti di gioco, se perde l'internazionale finiscono, mentre se vince o se deve segnare un gol non gli danno 3 minuti, sì. Credo sia un grande alibi. Lei cosa pensa di questo? Io penso che in linea di massima lei ha ragione nella generalità dei casi. Nel caso di ieri io credo che i giocatori dell'Inter siano abbastanza avveduti, abbiano abbastanza esperienza di calcio in campo da capire che quella del loro allenatore di ieri sera è semplicemente una boutade e nemmeno di grande buon gusto, anzi direi di pessimo gusto, quindi non credo che possa avere conseguenze da questo punto di vista. Volevo leggervi un breve corsivo del Corriere della Sera di stamane su un episodio che è passato troppo inosservato, anzi che è stato, mi pare, ignorato. Siamo venuti fin qua per vedere morire Kakà. Questo coro truce e avvilente, scrive il Corriere della Sera, per il vuoto morale di cui è figlio, non è il frutto di un singolo malato di mente, ma dell'intera curva del Bologna che l'ha intonato dopo 2 minuti, bissandolo mezz'ora dopo senza che nessuno si dissociasse. A furia di cestinare le regole che esso stesso si è dato, il nostro calcio si è infilato in un letamaio di comportamenti che nessuno avverte più l'esigenza di sanzionare. Quello che è accaduto meriterebbe la squalifica del Dall'Ara. E io sottoscrivo a due mani. Vittorio Ramantova, buongiorno. Ah, buongiorno. Ascolti, volevo parlare dell'arbitro di ieri, no? Bologna-Milan, sì. Che è una partita più regolare di quella, una supremazia così. La dirigenza rossoblu è andata in escandescenza, anche i giocatori, Terlizzi, Amoruso, cioè, ma dove sono stati gli sbagli dell'arbitro? Massimo 2 rigori dubbi, boom, è una munizione che ci stava, non so. Anche lì si esagera, no? La dirigenza. E poi un'altra cosa, volevo fare i complimenti a Ancelotti, che spero tanto che arrivi a superare Rocco, ma a lui non gli danno mai la panchina d'oro o l'Oscar del miglior allenatore. Nel 2008 ho vinto Champions League, Supercoppa, campione del mondo. Mai parlato di miglior allenatore in giro, la danno Mancini che è stato esonerato, Prandelli 2 volte. Esonerato magari no, insomma, non esageriamo. È arrivato a compimento missione, si è pure un po' con il fiatone nel finale, ma insomma era arrivato, esonerato non direi. Non so se Ancelotti in passato ha vinto o meno la panchina d'oro, ma insomma io sa cosa penso dei premi in genere, visto che lei è un ascoltatore assiduo, penso che le onorificenze l'importante è non meritarle. Ed è un vecchio aforisma del grande Leo Longanesi che risale a ben più di mezzo secolo fa. C'è un messaggio, una mail che è arrivati contemporaneamente, perché la mail è stata scritta nell'istante esatto in cui stava arrivando questo messaggio. Allora, un ascoltatore scrive un sms: che meraviglia, sono in Austria a 40 km prima di Klagenfurt e già sento Radio 24. Fernando. Grazie Fernando della sua fedeltà. Arben scrive da Ferrara: complimenti, stai parlando di argomenti tecnici e tattici e non di polemiche, di isterismi, dove bisogna cambiare canale. Nel frattempo io purtroppo ho già cambiato stazione, mi spiace Arben, che peraltro non lo puoi sentire visto che ha cambiato stazione. Il lunedì è il lunedì io parlo di quello su cui vi sollecitate, e quindi se la scelta degli argomenti non piace, perlomeno è molto democratica, perché non è imposta da me ma è scelta da ciascuno di voi. Sergio per esempio, Genova, buongiorno. Buongiorno Garanzini, dica. Complimenti per la trasmissione. Io questi non, perché li scelgo mai, dire, però, vabbè. Innanzitutto, per entrare nell'argomento arbitri, un vecchio proverbio genovese, se me lo consente, che dice chi non c'è non tetta. Non so se ha capito cosa significa. Lo traduca a beneficio del pubblico più in generale. Chi non piange non prende, non ha. Ecco. Nel senso che la settimana scorsa si ottenga, io sono tifoso del Genoa, è stato espulso, è stato mandato via. C'è stata una bella lamentata da parte del Catania. Sarà un caso. Io ho visto l'arbitraggio del signor Banti dalla partita di ieri, che l'unica cosa che ha imbroccato secondo me è stata l'espulsione di Matteo Ferrari, che ci stava perché ha fatto del falli da munizione. Per il resto, guardi, mi creda, io ho visto bene la partita, è stato un arbitraggio a senso unico. Sarà un caso, non lo so. Sì, sarà un caso, perché se devo pensare che sia un arbitraggio a senso unico per il Catania, Sergio, allora perché continuiamo ad andare allo stadio? Insomma, se fosse così semplice, no? Perché una squadra si lamenta e la domenica dopo viene indennizzata, accade ogni tanto, oppure semplicemente è che gira la ruota e che la volta dopo va in un'altra maniera, però è semplice poi fare 2+2 e dire avete visto che quello... Può darsi che succeda ogni tanto, ma non... Cioè, dire che sia una regola, oppure che dire che ieri l'arbitro di Marassi è arbitrato a senso unico perché voleva danneggiare il Genoa e agevolare il Catania, beh, insomma. Paolo Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Sì. Volevo solo esprimere un'opinione da milanista, visto che ieri sono stato a Bologna a vedere la partita. Sì. Che voglio andare un po' controcorrente, ecco. Secondo me la difesa del Milan è stata imbarazzante. Non so se lei ha visto la partita, ma soprattutto il primo tempo È stata imbarazzante secondo me, siamo stati abbastanza anche fortunati a mio modo di vedere con l'espulsione che ci ha agevolato molto. Io sono tifoso del Milan. Poi mi scusi, è una piccola chiosa perché era una cosa velocissima, volevo fare una piccola protesta visto che sono un vecchio abbonato di Sky, perché l'anno scorso c'era una bellissima trasmissione che partiva a mezzanotte e oggi forse fanno più ascolto i comici che parlano di calcio, vidi gnocchi, ecco, grazie. Grazie a lei Paolo. Io non credo che, cioè anch'io sono abbastanza stupefatto dal rendimento della difesa del Milan, nel senso che se guardo l'anagrafe e se ne leggo la formazione al buio, mi sembra che sia poi più fragile ancora in realtà di quanto non sia. Detto questo, io credo che sia ora di cominciare a fare i conti seriamente con questa terza forza, cioè che tra Inter e Juventus, tra le due grandi litiganti, possa poi essere il terzo alla fine a divertirsi, perché insomma tra meno di un mese ricominciano le sfide di Coppa. Potrebbero anche non durare moltissimo se il momento delle nostre squadre rimane questo e rimane quello delle squadre britanniche, soprattutto nel Manchester, ma non è mai detto, invece non è certamente un augurio, può darsi che invece il cammino prosegua. È un cammino che il Milan farebbe volentieri, come sempre fatto negli ultimi anni, quest'anno invece non se lo può permettere, e ho l'impressione che anche la suggestione degli anni con finale 9, che se uno crede a un minimo di cabale potrebbe avere una piccola incidenza, beh insomma io credo che questo possa diventare l'anno del Milan. Due ascoltatori fiorentini. Gianni, Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, volevo brevissimamente sulla Fiorentina, siccome qui è già scoppiata tutta il sospetto di congiura a Firenze, non si parla d'altro. Basta meno per i fiorentini. Sì, basta meno di così. Eh? Sì, sì, no, qui siamo ormai proprio alla rivoluzione. Allora dico, questo piangersi addosso, ma il discorso secondo me è questo: la squadra quest'anno è più debole di quella dell'anno scorso per una campagna acquisti sbagliata. Sono venuti fuori, a mio avviso, anche alcuni limiti di Prandelli, anche a livello di gestione, secondo me. Però qui non si può toccare né Prandelli né Corvino, perché se no sarà un peccato di lesa maestà. Volevo sapere cosa ne pensava. Non, Gianni, bisognerebbe seguire queste squadre con più continuità, cosa che non è possibile, anche perché sono 20, no? E quindi vederle sempre è dura, capita di vederle una volta ogni tanto. Io ho rilevato tra la partita di, insomma, non mi pare che la Fiorentina meritasse di perdere né a Milano né tantomeno a Torino, e questo è un dato di fatto, perché vuol dire che dal punto di vista del gioco ha tenuto testa a due squadre teoricamente più forti e da classifica più forti di lei. Noto una squadra forse un po' compassata, mi pare, nel modo di porsi. Trovo che non manchi il cambio di marcia, ha dei giovani molto, molto interessanti. Felipe Melo credo che sia un grande playmaker in mezzo al campo e che abbia potenzialità di crescita migliori. Questo vale per molti altri giocatori. Altri ancora invece sembravano grandi speranze e si sono un pochino fermati. Qualche, ha detto bene lei, qualche mossa di mercato che sembrava portare a grandi risultati. Vedi Vargas, non mi sembra che sia andata così. Però è anche vero che è un momento in cui tutto gli sta girando abbastanza storto e nonostante questo le prestazioni sono abbastanza all'altezza. Le ultime tre sconfitte sono tutte quante immeritate per una serie di varie ragioni, e quindi aspetterei insomma a essere poi tanto critico nei confronti della Fiorentina. Marina ha chiamato da Faenza, buongiorno. Buongiorno, no, da Piacenza. Ah, Piacenza, mi scusi, sono io che ho letto male, era scritto giusto. Buongiorno, è la prima volta che parlo con lei e sono tifoso della Juve. Sì. Vorrei sapere, secondo lei non è, dopo quello che abbiamo passato, dato che non c'è più quel farabutto di Moggi, non crede che sia ora che vengano riconosciuti anche per la Juve gli arbitraggi in buona fede, cioè pro Juve in buona fede? È sottile, come è molto femminile questa, questa domanda, perché è assai più sottile di quella a cui sono abituato, qua perlomeno. Sì, credo di sì, credo che lei abbia ragione, nel senso che non, dato che non c'è più il sistema, diciamo, è abbastanza normale che nel trattamento che una grande squadra abitualmente ha ricevuto per i 105 anni precedenti ai due dello scandalo acclarato, è giusto che adesso che tutto è tornato alla pari, la Juventus abbia diritto ogni tanto a un trattamento di riguardo come capita alle grandi squadre. Credo che questo più o meno lei volesse dire e credo che questo più o meno stia avvenendo non soltanto da sabato. Aldo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ascolti, un quesito diciamo tecnico-dattico. Il gol bellissimo di Marchisio in Juventus Fiorentina, sì. L'ho guardato più volte, anche perché è passato parecchie volte in televisione, e ho avuto l'impressione che potrebbe trattarsi persino di uno schema, anche se i miei amici mi dicono che sono visionario. Io non sono un tifoso della Juventus comunque. Perché Amauri è praticamente in fuorigioco, ma quasi fermo, tipo boa praticamente, e potrebbe fare da punto di riferimento e al passaggio di Del Piero e all'inserimento di Marchisio, tant'è che infatti il punto, adesso sembra quasi un discorso geometrico, il punto di confluenza tra Marchisio e il pallone di Del Piero è proprio lì dove Amauri poteva fare in qualche modo da punto da bersaglio tra virgolette, e poi l'azione naturalmente è splendida e anche il gol è una baggianata, che ho detto, volevo sentire il suo parere. Aldo, non lo so sinceramente, non... no, una baggianata no, non... può essere, può non essere. Io credo poco agli schemi d'attacco, credo molto all'inventiva del giocatore, del campione, quella che Del Piero ha realizzato l'altra sera, per esempio, con questa palla che aveva veramente i giri contati, che doveva arrivare lì, in quel punto lì, e con quella morbidezza. Credo all'inserimento perfetto di Marchisio e credo che sia stato bravo a Mauri a non intracciare questa combinazione, ma la palla era palesemente per l'inserimento di Marchisio. Quindi poi è vero che ogni tanto gli appassionati si divertono a ricamare magari più di quanto, e andando molto al di là delle probabilmente, insomma, delle intenzioni di chi quella cosa l'ha realizzata sul campo distinto. Ci sono gli arbitri, a proposito delle partite di mercoledì. Allora, Atalanta-Bologna Giannoccaro, Cagliari-Siena-Ciampi, Catania-Inter-Rocchi, Chievo Lecce Rosetti, Fiorentina Napoli Rizzoli, Milan Genoa Gervasoni, Roma Palermo Pierpaoli, Sampdoria Lazio Airoldi, Torino Regina Farina, Udinese Juventus Tagliavento. È il momento del ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 26 gennaio 1969. L'australiano Rod Laver si aggiudica gli Australian Open, battendo in finale lo spagnolo Andrés Gimeno. Laver si impone agevolmente in 3 set, nonostante il giorno prima avesse giocato una semifinale molto dispendiosa, durata ben 92 game, contro il suo connazionale Tony Roche. Dopo aver trionfato a Brisbane, nel 1969 il campione australiano vincerà anche Roland Garros, Wimbledon e Open degli Stati Uniti, riuscendo così a realizzare il Grande Slam, un'impresa che gli era già riuscita nel 62. Per 5 anni Laver era stato escluso dalle prove dello Slam perché aveva perso lo status di dilettante ed era stato quindi riammesso, come tutti i professionisti, nel 1968. C'è qualche ascoltatore che critica, non che critica, che nega il fatto che gli anni con finale 9 siano favorevoli al Milan. Beh, non mi pare, se vado a memoria, ma credo proprio 59 scudetto, 69 Coppa Campioni, 79 scudetto, 89 Coppa Campioni e 99 scudetto. Quindi sì, per il gioco dell'alternanza toccava la Coppa Campioni 2009, ma non giocandola. Qualcuno magari non milanista può consolarsi pensando che può toccare la Coppa UEFA quest'anno, ma la sensazione, guardando la classifica e vedendo come stanno le rispettive squadre e da che impegni sono attese, boh, insomma, potrebbe andare così. HK, scrive Daniele da Venezia, più che la riconciliazione ha fatto bene la panchina di Ronaldinho. Non c'è nessun dubbio che questo sia un passaggio importante per KK, perché ha più spazio, perché ha meno tappi davanti, perché può cambiare ritmo, può cambiare marcia, ma insomma sono problemi di Carlo Ancelotti, che mi pare fino adesso li abbia gestiti abbastanza bene. Piero, provincia di Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Io, se posso dire la Juve, innanzitutto sono molto contento che mi sia un porta alla squadra e spero che l'allenatore continui a far giocare molto più spesso questi giovani di vivaio, che insomma stanno facendo molto bene. Primo. Secondo, sabato sera sì, il pareggio era più giusto, è stata una bella partita. La Fiorentina ha giocato meglio con la Juve che contro il Milan, sì. Peccato che l'unico interprete negativo, cioè proprio mediocre, era l'arbitro. Cioè l'arbitro è stato proprio mediocre, cioè secondo me è proprio un problema di mediocrità di tanti arbitri. E purtroppo di sabato sera è stato un arbitraggio, cioè proprio mediocre, non ho niente da dire. Mourinho, per quanto riguarda, un grande, cioè dopo quello che ha detto l'altro giorno, cioè domenica a Bergamo, per noi juventini, cioè se lo immagina. E poi dopo quello che mi ha fatto sentire lei all'inizio della trasmissione, ancora di più la mia stima e la mia ammirazione. Mourinho sì, perché è troppo forte. Sì. E poi spero che lei si sbagli per quanto diceva del Milan, cioè che la Juve soprattutto vada avanti in Coppa e il campionato, però mi sa che ha ragione lei. C'è tempo di vederlo, poi non è che adesso ci mettiamo qua a perderci in pronostici che poi non hanno senso. Un conto sono le sensazioni, un conto è quello che si ricava il giorno prima. Poi. Alberto, Bologna, buongiorno. Buongiorno Gigi, complimenti a lei e alle sue collaboratrici molto gentili. Tre cose velocissime poi ascolto in radio. La prima: secondo lei, se Mourinho potesse tornare indietro quest'estate, accetterebbe ancora la panchina dell'Inter? Uno. Due, sono d'accordissimo con lei. Ieri, da amante di calcio, né tifoso bolognese né milanista, secondo me ha visto giocare una grandissima squadra, quello era il Milan. Terzo, chiedo scusa, ma non ho capito chi era il giornalista del Corriere che ha detto che la frase dei tifosi del Bologna, io ero lì neutrale, quindi non voglio difendere nessuno. È vero, ma è stata subissata di fischi dall'altro resto del pubblico e quando è uscito Kakà è stato straapplaudito da tutti. Questa era una nota di cronaca, come direbbe un giornalista professionista. Grazie Zizi, complimenti. Grazie a lei Alberto. Beh, io spero che abbia sentito bene lei e male Alberto Costa, perché invece insomma, riferisce di questo coro osceno, riferisce del bis che c'è stato mezz'ora dopo senza che nessuno si dissociasse. Se invece il pubblico fa una bella differenza, quindi insomma, lei sta dicendo bianco mentre Alberto ha raccontato nero. Io mi auguro che abbia ragione lei, e che abbia capito male Costa, perché vorrebbe dire che il pubblico di Bologna è rimasto un pubblico civile, come lo ricordavo un tempo. Non potrei dire la stessa cosa e mi stupirebbe molto, data la città, se invece fosse andata in quell'altra maniera. Poi già il solo fatto che che questo coro sia stato intonato sinceramente squalifica, ma non può squalificare una città, squalifica il solito gruppo di dementi. Bisogna vedere quanto è grande quel gruppo e quanto si è dissociato il resto del pubblico. Alberto da Vicenza, buongiorno. Sì, Garantini, buongiorno. Due riflessioni veloci, volevo sentire il suo parere. La prima è la disposizione tattica dell'Inter, che mi lascia molto perplesso, perché se proprio vuol partire con gli 11 che è partito ieri, tanto valeva mettere sulle ali Mancini e Zanetti, centrocampista offensivo Stankovic e prima punta Adriano. Se vuol giocare con la seconda punta mette dentro Cruz, ma inventare Mancini seconda punta mi sembra perlomeno un grosso punto di domanda. Forse aveva ragione Fascetti quando diceva che gli allenatori più bravi erano quelli che facevano meno danni possibile. E la seconda riflessione riguarda gli esoneri di Pillon a Regina e di Mutti a Salerno, che li trovo incomprensibili. Pillon è da un mese sulla panchina, non so quali colpe ha, Mutti ancora peggiore, perché la squadra che è cambiata a 4-5 undicesimo reduce alla vittoria su Manto e buona prestazione a Salerno, veramente non riesco a capirlo. Allora, o i presidenti di DS fanno altre valutazioni o significa che no, qualcosa che non va, che io non riesco a capire. Ma sì, che è l'isteria di questi comportamenti che c'è sempre stata a livello alto, a livello basso. Insomma, adesso Landi riviene alle panchine, purtroppo ormai non mi pare faccia più notizie. Credo anzi che in questa tornata, in questo fine settimana, un paio di panchine si siano salvate giusto perché si gioca di mercoledì. Perché credo che anche a Lecce ci sia un discreto malumore con Beretta, credo che a Udine Marino abbia le valigie pronte da tempo, ma giocandosi per l'appunto mercoledì, questo diventa un ultimo appello, diventa una chance in più, e comunque rendeva inopportuno un cambio in questo momento. Mirko ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Garazzini. Dica. Senta, io chiaramente sono un tifoso della Fiorentina, volevo fare innanzitutto complimenti alla mia squadra. Sì. Perché sia sabato che la settimana prima in Milan si è fatto due belle partite. E quindi questo mi va dato atto, anche perché a me con questa nuova dirigenza, con Prandelli, con Corvino, mi riesce difficile anche di criticare la mia squadra, e quindi di questo sono contento. Poi chiaramente però bisogna anche fare, oltre a questo, complimenti anche a Della Valle, perché comunque sia uno stile, anche sabato sera lo ha fatto vedere, perché è uscito comunque fuori dal coro rispetto alle proteste che fanno in linea di massima sempre tutti, o i presidenti o gli allenatori. In che senso è uscito dal coro? Si è allineato al coro? Si è allineato, ma con un altro stile. Questo lo dice lei, Mirko. No, guardi, io alla differenza di stile ricordo ancora tra gli episodi più comici della storia del calcio italiano la lettera ufficiale di Cobolli Gigli alla federazione dello scorso anno. L'eleganza della protesta dei Della Valle nelle due ultime occasioni sinceramente mi è sfuggita. Può darsi che sia un problema mio di non averla saputa cogliere. Mi è sembrata perfettamente allineata alle altre. Il fatto che poi loro parlino certamente un italiano migliore di quello di Zamparini, faccio per dire, è indiscutibile, questo sì. Dino, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi da Juventino mi scuso con i tifosi della Fiorentina che hanno giocato un'ottima partita, purtroppo è successo quello che è successo, ma capita. Le volevo solamente fare una domanda: tra i tanti giovani della Juve, a mio parere Marchisio è il giovane più completo e con più personalità. Purtroppo però non riesco a vedere in Giovinco quel campione che tutti decantano, quel campione in divenire. Volevo avere il suo parere. La ringrazio. Su Marchisio non lo so, cioè, certamente le qualità ci sono, può darsi che sia è uno dei più bravi, può darsi che poi alla fine si dimostri più bravo in assoluto. Giovinco le qualità le ha, e come, il problema è che a stare in panchina passiscono secondo me a quell'età, e quindi non so quanto questa situazione convenga a lui e quanto convenga alla Juventus. Molto poco, perché non è in grado di dare abbastanza in rapporto alle sue qualità, chiamato in causa solo così a lunga intermittenza, e a lui credo che convenga direi meno ancora. Grazie a Peter Biescapè in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, vi lascio al giornale radio.